Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. Di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate e continuate a picchiare duro. Allora, lo sai che cosa mi fa incazzare, Parenzo? Mi fa incazzare il fatto che sulla questione dei gay, dei matrimoni, delle adozioni, delle unioni civili, il governo non si assuma le proprie responsabilità. Cioè, quando uno dice libertà di coscienza, è per forza. Ma sì, gli accordi, l'NCD, il Vaticano. Casca tutto lì, se no, casca tutto. Ma ho capito, è una cosa che mi fa orrore. Ma se un governo non prende posizione nemmeno su una cosa del genere, a favore di questo, contro questo, assumendosene la responsabilità, ma che roba è? Cioè, perché uno dovrebbe dire libertà di coscienza? Uno ha una posizione politica, un governo ha una posizione sulle unioni gay, mica è necessario essere favorevoli per forza al matrimonio o all'adozione, basta semplicemente avere una posizione. Invece si appellano alla libertà di coscienza, facendoci credere che sia una roba, no, che riguarda le coscienze, dunque non è giusto che il governo prenda posizione sull'adozione, eccetera eccetera. In realtà vogliono, come dici tu, tenere in piedi la baracca, perché altrimenti sulle adozioni crolla il patto con l'NCD, crolla tutto, il Vaticano si incazza, eccetera eccetera. La Boschi dice: sono bionda ma non sono scema, da Giletti. Io a volte scherzo con i miei colleghi in Parlamento quando provano a fare qualcosa, magari perché mi vedono giovane, ok, dico vabbè che sono bionda, ma non sono scema, quindi... Vabbè ragazzi, a parte gli scazzi tra il Renzi e il nuovo centrodestra, mamma mia che orrore, sulla questione dei sulla questione delle unioni civili, c'è stata la convention di Grillo e Casaleggio a Imola. Come no? Beh grande ragazzi, kermesse, grande secondo kermesse. Grillo bisognerebbe lavorare al massimo 3 o 4 ore. Ma andiamo, via. 4 ore al massimo di lavoro, perché c'è il lavoro e poi c'è la tua vita. Abbiamo passato 100 anni a meccanizzare ed automatizzare il lavoro per sgravarci dalla fatica e continuiamo a fare gli stessi orari di lavoro di 100 anni fa. Nuova proposta per l'economia del paese. Ma non male questo. Lavorare 3-4 ore al giorno. Beh certo, in un mondo ideale è questo fantastico. È anche non lavorare, perché 3-4 ore allora? Forse è meglio non lavorare un cazzo. Cioè, no. Perché deve essere per forza 3-4 ore? Per dare un senso alla giornata, in fondo. Sì, da così. Cioè, se è uno vero, sa è che vero. Lavora, che non fa niente. Ragazzi, tutto il giorno, si annoia. Sì, ma non scherziamo. Ma lavorare 3 è normale. Ma no, dai, come normale, Grillo. Non si può dire normale. Che c'ha la tosse, Grillo? Che è successo? Mi è andato per traverso Casaleggio. È normale, i capelli di Casaleggio che sono andati per traverso, ma è normale. Allora? In Germania la gente lavora 1-2 ore. Ma non al giorno. È vero, è falso, certo. È sbagliato. Ma non ovunque è vero. Così in Europa. Ma non si è sveglia così. La mattina, apre l'iPad, lavora con l'iPad, gioca con l'iPad, fa tutto online. E poi un'ora lavora, produce, e poi il resto riduce del tempo le emissioni, e il resto del tempo organizza, produce con l'iPad, sta a casa con la moglie, con i figli, il mondo è così, non si può produrre di più. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, ma eh? Non è vero, non è vero, è falso, è falso. Quello era sempre Grillo che con i capelli di Casaleggio in bocca, eh. Di Grillo, dice anche questa cosa sui disadattati, sui disadattati. Ma pensate un po' a Noè, a Noè che costruiva l'arca e col bel tempo, pensate come l'hanno preso per il culo, pensate alla moglie che dice guarda mio marito che sta segando delle cose che non piove, i figli è impazzito e lui faceva l'arca, ecco cos'è l'arca. E la stiamo costruendo adesso perché abbiamo un'utopia dentro, perché in fondo tutti, io, voi, compresi tutti, non parliamo di Casaleggio, siamo dei disadattati. Il padre di Di Battista, il padre di Di Battista, uno dei leader del Movimento 5 Stelle, anche se loro non amano molto la parola leader, dice come aveva già detto, come aveva già detto alla Zanzara un anno fa, eccetera eccetera, non sono di destra, sono fascista. Fai la cosa che è di destra. No, di destra proprio no. Sono fascista, è un'altra cosa, assolutamente un'altra cosa. Parliamo di cultura e di ideologia, è un'altra cosa. Cioè, ha anche specificato, ha puntualizzato, no, non sono di destra, ma fascista è un'altra cosa. Ma con serietà, con importanza. Allora, devo dirti la verità, io sono abbastanza contento per, in realtà non me ne frega niente, però sono contento che uno non sia stato condannato per le proprie idee. Cioè, il signor De Luca che è stato assolto oggi, sì, per istigazione a che cosa, non mi ricordo. Incitò a sabotare la TAV. Sì, incitò, tra l'altro qui alla Zanzara, frase all'Huffington Post e alla Zanzara insieme, fece delle interviste, poi manderemo in onda tutto quello che disse, anzi no, mandami in onda adesso un pezzetto, dai. Si tratta della maggioranza di una comunità che si oppone da molti anni allo stupro della propria ballata e credo che abbiano diritto di parola e anche di azione contro lo stupro della loro ballata. C'è diritto al sabotaggio di quella opera. Poi disse che il sabotaggio della TAV è necessario. Io sono contento per la soluzione di De Luca, perché, ripeto, trattasi di idee. Però, ragazzi, immaginatevi un'altra persona che non ha dietro, non so, un leghista, un berlusconiano, che non ha dietro tutta la... Addirittura pare che il presidente francese abbia chiamato Renzi per intervenire, cosa che in Italia non si può fare, ovviamente, forse Hollande è abituato a qualche altra cosa. Poi Palazzo Chigi ha smentito. C'è una persona che non ha dietro, che non ha dietro tutta la gran cassa dell'informazione, la gran cassa dell'informazione. Beh, io non so come sarebbe finita. Lunedì Salviniani, ciao Matteo, buonasera. Buona serata a tutti da quel di Milano. Senti, ma sei contento anche tu per l'assoluzione di De Luca oppure no? Sì, in linea di principio sì, perché io sono contro ogni reato d'opinione. Abbiamo raccolto le firme per cancellare la legge Mancino. Secondo me in una democrazia evoluta ognuno è libero di dire quello che vuole, esporre le teorie più assurde senza per questo essere processato. Il problema è che la libertà di parola vale a sinistra, però come dicevi tu, se avessi invitato io a sabotare qualcosa saresti già coi ceppi, già coi ceppi. Stiamo parlando di un processo in corso e quindi al processo spero che faccia un precedente che valga per tutti la stessa libertà di parola. De Luca, su questo ha ragione De Luca. De Luca ha detto che la TAV va sabotata, poi ha corretto, ha fatto, però ha detto che va sabotata. Sabotare a casa mia non è con le idee, è con le azioni. Cioè, signor Henri De Luca, scrittore, ex militante di sinistra, eccetera eccetera, lotta continua, quello che volete, ha detto che va sabotata con le azioni. Secondo me, se lo avesse detto qualcun altro, non sarebbe finita così. Ma io sono contento per De Luca, perché una cosa così, diciamo che non, secondo me non è un'incitazione alla violenza, anche se molti possono prendere spunti. Ma non è che ci vuole De Luca per andare a sabotare la TAV. Se uno vuole sabotare la TAV, ci va a prescindere. Se uno vuole far esplodere un cantiere, ci va a prescindere. Dunque, tu esprimi solidarietà, cioè sei contento per De Luca, Salvini? Sì, è una sentenza civile. Io però ricordo che sono finiti in galera in Veneto, in Lombardia, delle persone che senza aver torto un capello a nessuno erano intercettate al telefono perché parlavano di autonomia, di indipendenza. Avevano anche un finto canale armato. Per tutti. Sì, avevano un trattore camuffato da carro armato, ecco. Infatti, andavano internati per insufficienza mentale. L'unico che ho è per quei poliziotti e per quei carabinieri che ci sono andati di mezzo e si sono presi le pietrate e le bastonate a furia di sabotare la tavola. Però ripeto, secondo me uno potrebbe parlare di qualsiasi tema, dall'olocausto all'omosessualità, esporre le teorie più bizzarre a cui contrapporre altre teorie e non un processo. Allora, c'è una vicenda oggi abbastanza strana, Parenzo, che è quella del fatto che il Papa, sembra che poi magari è uno scherzo, ha mandato una lettera di solidarietà a un signore che occupa le case che tu conosci bene, che si chiama Tarzan, il signor Alzetta, noto occupatore di cause. Conosci la canzoncina, quella che fanno a Roma? Ma Tarzan lo fa, occupare le case vuote e pare un crimine di Stato, bellissima, mandala quella. Ma Tarzan lo fa, ecco, voglio dire, va bene che il Papa chiama sti tutti. Sti fascisti qualunquisti, mandala, va bene che il Papa chiama tutti e parla non con tutti. Non credo che abbia chiamato il mio amico Alzetta. Ha mandato una lettera di solidarietà. Sì, no, l'ho letto anch'io sugli online. Tu dici che non è vero, no, ma è vero, per forza, è vero, una lettera, non l'ha chiamato, cioè non siamo noi. Alzetta. Scusa, se Matteo, tu ci credi? Io non voglio crederci. Perché? Perché mi rifiuto di pensare che il Santo Padre chiami uno che ha decine di denunce per invasione, devastazione di edifici, occupazione abusiva, no, devastazione, blocchi stradali, no. Devastazione niente. Pubblico ufficiale. Sì, sì. E soprattutto mi è piaciuto di pensare che gli abbia scritto per incoraggiarlo. Sì, come sì, ma quello su Corriere.it. Quello risulta che per incoraggiarlo nella sua azione a favore dei poveri, certo, non è lavoro detto, importante. Non è che ha detto occupa una casa, però insomma, ha scritto a uno che dice che le case si devono occupare, perché bisogna darle, bisogna distribuirle, eccetera, eccetera. È così. Io mi rifiuto di pensarlo per stima nel Santo Padre. Se così fosse, mi aspetto che domani scriva ad esempio i 22.000 milanesi che aspettano una casa popolare magari occupata abusivamente dai Tarzan Meneghini. Beh, non lo farà, credo, non lo farà, oppure sì, perché tanto chiama tutti, scrive a tutti, è possibile. Un attimo solo, che c'è il traffico. Traffico veicolare. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Penso il mio cervello è in movimento, liste Zanzara in moltissime città, stupendo, liste Zanzara in moltissime città, stiamo lavorando su tutto, candidati, programmi, eccetera, io non c'entrerò niente, sarò lì a vigilare. Parli come Casaleggi, come Grillo. Sarò lì, un po' sì, la posizione è un po' parli quella. Come, sarò lì a vigilare su di voi, ma parli come, mi tappi in ogni città faremo, candideremo di tutto, dei Rom, anche dei ovunque, Rom e nazisti, ovvio, cioè, sei pazzo ormai, come Casaleggi. No, candideremo a Donato da Varese, Mauro da Mantova. Assolutamente, Sammy Varin, i Rom, ovunque, tutto il mondo. Salvini, presente. Ci sei? Sono qua, stavo leggendo una cosa che mi ha fatto incazzare oggi. Che è successo? Che è successo? Cosa? Che t'ha fatto? Che nella legge di stabilità del fenomeno Renzi ci sarebbe, stiamo verificando gli estremi, un bando da 500 milioni di euro per aprire altre 22.000 sale di gioco, da gioco d'azzardo in Italia. Vabbè, adesso non mi sembra esattamente un paese fondato sull'immigrazione, sul gioco d'azzardo, non mi sembra che abbia un grande futuro. Vabbè, adesso paese fondato sull'immigrazione e gioco d'azzardo, stai un po' cambiando la cosa storica sull'Italia. Sto leggendo, ma perché noi stiamo facendo una battaglia per limitare le sale di gioco che le slot machine rovinano migliaia di persone, ecco, che ci sia un anche quello fa muovere l'economia, però anche quello fa muovere un po' di economia. Ma io ritorno al mio e prima o poi ci riusciremo, riapriamo le case chiuse le magari, case chiuse, quello protetto, controllato, non fa male a nessuno. Il gioco vi andrò a grattare, vi andrò a grattare un po' di voti sulle case chiuse, vi andrò a grattare un po' di voti. A me interessa arrivare al risultato. Guarda, quando leggo di sindaci del PD che sgomberano i campi rom usando le ruspe, io non è che sia geloso, sono contento perché raggiungo Senti, il mio obiettivo. Io voglio capire una cosa, sono curioso di sapere, ma che bravi, da Salvini, ma che bel clima. Una roba sul vitalizio, caro Parenzo, perché io non so quando mi fa incazzare quando gente fa ricorso per la diminuzione di 300-400 euro, c'è stato un taglio in varie regioni e ci sono sia dalla Lombardia al Veneto alla Sicilia eccetera eccetera, e succede anche in altre realtà, per esempio i condannati, no, che poveracci rispetto ad altri condannati, quelli fino sopra i due anni anni sono stati costretti a rinunciare alla vitalizia e si hanno fatto ricorso. Quando sarà Salvini noi prenderà. Noi avevamo buttati fuori quelli che avevano fatto ricorso sì. con incarichi leghisti per. Però voglio capire da Salvini vitalizi. Che avrà probabilmente uno o due vitalizi, non so tra quanti anni, tra tantissimi anni, perché è ancora giovane. Ma ti senti di rinunciare? Ma ti senti di dire rinuncerò a tutti i vitalizi come hanno fatto alcuni? Ma guarda, noi l'abbiamo proposto, non è che mi sento. No, ma tu i tuoi vitalizi rinuncerai. Ma dato che no, non ho i vitalizi, faccio l'europarlamentare e lo Stato italiano non mi darà assolutamente un centesimo di euro nei cittadini italiani. Vabbè, mi sono sempre soldi nostri quelli del Parlamento europeo, ma quando prenderai il vitalizio, sì, lo prenderai o rinuncerai? Vabbè, uno, quello che sarà. Ma perché deve rinunciare? Uno quando sarà, mi sembra 65 anni, non ho neanche verificato, ma mi sembra che sia 65 anni. Cioè, ma è giusto il vitalizio o no, secondo te, o è sbagliato? Se io verso tutti i contributi che mi coprono quello che mi daranno, è giusto averlo. Ho capito, ma i versamenti io non verso tutti i contributi. Vabbè, ma quello è cambiato il sistema, e fortunatamente. Vabbè, è cambiato, non è più all'antica. Pensi che sia giusto? Pensi che sia giusto? Ha fatto una settimana di Parlamento. Adesso, giustamente, almeno così funziona in Europa, non so in Italia. Aspetti 65 anni come tutti gli altri comuni mortali e prendi quello che hai versato. Sì, lo so, però quello che uno versa ovviamente lo decide il Parlamento, cioè lo decidono gli stessi parlamentari. Ma il discorso è lungo. J-Ax su di te, sentiamo. J-Ax su Salvini, ancora una volta. Trovo curioso poi che chi si spende tanto come Salvini per difendere le vittime da furti da scippo, poi quando la cifra si alza a 11 milioni di euro e le vittime siamo tutti noi, improvvisamente si mette in difesa di chi, secondo la procura, avrebbe rubato. Ma... Ehi Matteo, guarda che le ruspe in retromarcia non funzionano, eh. Questa non l'ho capita bene, questa di J-Ax. Voleva dire che una cosa c'ha è... l'ansia, sto tizio. C'ha l'ansia. È quello che settimana scorsa ha detto che Salvini lo fa ridere come le scoregge. Sì, esatto, sì. Esatto. Ma lo dicono i bimbi di 5 anni, la scoreggia fa ridere anche la cacca, la puppa e la pipì. Però quando hai superato i 5 anni, probabilmente... ti rivolgi alle altre persone con altri toni. Detto questo, no, ne ha detto un'altra. Aspetta, ne ha detto un'altra. A me piacciono pure alcune sue canzoni. Questo è il mio dramma personale. Ecco, però, stai vivendo un dramma incredibile. Aspetta un attimo, che ce n'è una ragione. Ce n'è un'altra. Se la vostra vita faceva schifo, ora che Marino è andato via, non migliorerà improvvisamente. Se prima avevate la faccia di Salvini, ora non sembrerete Brad Pitt. Ma questo è ossessionato da Salvini o no? Ma è un problema suo, invitalo alla radio, facciamoci una chiacchiera di 5 minuti sugli studi di settore, sulla legge sugli studi di settore. La mattina col problema di J-Ax, di Fedez. Dice che sei brutto, Ma probabilmente c'ha anche ragione, me ne faccio una ragione, ma non vado a dirlo al mondo. Comunque, sul fatto che io qualcuno a nome per conto mio abbia rubato, deve passare sul mio cadavere prima di dimostrarlo, altrimenti viene in radio e chiede scusa. Senti, ma oggi è venuta fuori una roba su un transessuale in Friuli che si è presentato davanti ai suoi studenti dicendo: io sono così, sono colà, col rossetto, anzi no, un intersessuale, nemmeno un transessuale. Così si è dichiarato, cos'è? Un intersessuale, è un'altra roba. No, cioè, dai, cos'è? Ti giuro, un intersessuale. Ma è un ultra. Non lo so. Ma non lo sapevo nemmeno io in realtà. L'intersessuale non è ancora un transessuale, cioè sostanzialmente un uomo che si trucca da donna, cioè questa è la sostanza, più o meno. Cioè un uomo che si trucca davanti, non lo so, forse farà delle cure ormonali, no. È una via di mezzo, diciamo, tra la eterosessualità e la transessualità. Intersessuale, vabbè, comunque, il supplente trans in una scuola media, credo, in una scuola superiore. Ma tu lo accetteresti in una scuola? Secondo te può insegnare? Ma in classe di mio figlio l'intersessuale uomo che si trucca da donna, onestamente no. No. Un transessuale per me, no. Per me discriminare fra eterosessuali e omosessuali sul lavoro o in ambienti scolastici è da imbecille, quindi non è un mio problema. Cioè, posso insegnare in classe da uomo vestito da donna? No. Grazie, anche no. Anche no, certo, che dovrebbe essere proibito secondo te in una scuola. Beh, vedi te, chiarisciti le idee, caro mio, e poi entra in classe con dei bimbi di 10 anni a cui spiegare come va il mondo. Cioè, ma un transessuale può fare l'insegnante? Ah no, un transessuale quantomeno ha deciso che cosa diventare, poi non sta a me giudicarlo. Uno che neanche ha deciso e si trucca in classe con dei bimbi di 10 anni, io non ce lo vorrei. A dopo! Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Oi, buonasera, Peppe. Miserabile, io se vengo lì, bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda! Siete criminali! Stasera ci aspettano grandi cose, aspettate fino alle 20:30 e avremo un'esplosione. Beh, poi vi dirò di cosa l'esplosione, eh. Poi vi dirò di cosa l'esplosione. Non amico so se mio. Resisto fino alle 20:30 qua sto morendo. Ma che cazzo ci frega a noi? Potevi stare a casa allora, no? Infatti, potevi rimanere a casa. Il mio senso del dovere, maledetto. Beh. Allora, ragazzi, succede a Cervignano. Cervignano credo che sia provincia di Udine, se non sbaglio, Udine. Cervignano, non so, Udine. Sei tu che conosci quelle zone lì, io non sì, lo so. Sì, sì. Sì, ha scelto di non nascondere la parte femminile che c'è in lui e si è presentato in classe con un velo di rossetto rosa, la matita nera per disegnare lo sguardo, la pelle incipriata, la borsetta e un vistoso paio di orecchini. Si chiama Michele Romeo, 39 anni, originario della provincia di Taranto, residente a Trieste da 5 anni, sposato con chi? Sposato con? Credo con una donna, credo, no? Sposato. Beh, se con si una chiama donna. Renato. No, Michele si chiama, per essere incoglionito, però l'ho detto 2 secondi fa. Comunque, una laurea in fisica teorica, un dottorato di ricerca in nanotecnologie, è iniziato ieri la sua supplenza al liceo cervignanese Einstein. Cosa insegna questo signore? Insegna matematica e fisica, ripeto, 39 anni, Michele Romeo. Come si definisce? Si definisce intersessuale. Cioè una persona con caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili. Cosa dice? Sono un ermafrodito, detto in maniera moderna, una persona intersessuale, non inquadrabile nei due ambiti estremali che sono come estremali, che sono il maschio e la femmina, i due ambiti, cioè i due, diciamo, ambiti, i due ambiti estremi. Non dico della normalità, cioè i due ambiti che conosciamo tutti. Perché lui dice giustamente il punto intermedio è questa. Beh, tu conoscevi gli intersessuali? Assolutamente no. Mi colloco in una zona centrale molto ampia. Maschio o femmina sono solo i piattini estremali di una bilancia. Poi c'è tutto quello che c'è in mezzo. Non voglio fare interventi. Cioè, come dire, sinistra o destra, la Democrazia Cristiana era la maggioranza, questo sì, praticamente. Scusa il paragone, ma è per capirci. Non voglio fare interventi chirurgici perché non sono donna, ma non sono nemmeno uomo. Sono una persona che sta a metà e che ha trovato una buona collocazione dal sé. L'unico ostacolo è il pregiudizio dettato dalla carenza di cultura. Adesso, per carità, noi siamo. Questa persona per me può insegnare tranquillamente. Certo che secondo me gli studenti dovrebbero sapere prima. Cioè, così magari il preside doveva andare dagli studenti a dire: guardate, questa signora, questo signore, sì, al caso. Questo signore che si definisce intersessuale, significa questo, è un bravissimo insegnante di nanotecnologie, di matematica, di fisica, eccetera, eccetera. Dovete sapere che è un uomo che si presenta però con il rossetto, si presenta con un paio di tette, di tettine, almeno da quello che vedo. Ci sono delle foto, potete vedere su Facebook, di questo Romeo, abbastanza chiare di che cosa fa. Sostanzialmente appare una donna, in realtà no, in realtà è un uomo, c'ha il pisello e tutto quanto. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Allora, pare che alcune, lui dice, gli studenti mi hanno accolto bene, sì, però delle famiglie sono incazzate, perché i ragazzi sono andati a casa e hanno detto: mamma, oggi si è presentato il maestro e c'aveva il rossetto, c'aveva le tette, la borsetta, sembrava una femmina, però lui dice di essere un maschio, che vuol dire? Amico mio, non è domanda semplice. Domanda normale. Ecco, però la domanda è questa: tu, tua figlia di anni 9, se si presentasse uno così in classe, cosa faresti? Guarda, ti incazzeresti o no? Dillo. Posso raccontarti un episodio noto. Qualche settimana fa stavo venendo a Milano, ero con mia figlia in treno e ho incontrato non un intersessuale, ma il nostro amico Malgioglio. Ah, la signora Malgioglio. No, questo posso raccontarlo, perché racconta. Malgioglio si avvicina e fa: ciao amore! E mia figlia giustamente mi dice: ma perché ti chiama amore? Io sono la zia Malgioglio. E mia figlia giustamente mi dice: come la zia? Dico: no, la zia, nel senso, tesoro, che ho provato a spiegare, dico: guarda, tuo vestito di rosa, mi sembra, di rosa, con una sciarpa rosa, delle questo ciuffo bianco enorme. Diceva: ma amore, amore, amore, io sono la zia. Mia figlia diceva: come la zia? Mia zia no. Tanto sei lo zio. Diceva: no, sono la zia. E ho spiegato che no. Vabbè, insomma. Cioè, non hai spiegato, hai cercato no, di spiegare. No, che ha detto? Ho detto che sì, ha detto? Lui si fa chiamare zia. Ah, ha guardato e detto, ah, va bene, va bene. Come origine. Siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Vabbè, ho capito adesso. Ma io non lo so, credo che se quando sarà il caso di qualche Robbia... domanda me la farei anch'io, sì. Ovviamente, se mia figlia tornasse a Gadis, è entrato uno che prima si chiamava Marco. Cioè, la sostanza è questa, la mattina... fanno bene queste famiglie ad essere incazzate o no? Cioè, incazzate, a porre voi la questione, che ci state sì. ascoltando, lo volete o no per i vostri figli un insegnante intersessuale che si presenta come uomo e in realtà... Le cose c'hai? Vanno stai preparate. Morendo? Stai morendo. Stamattina c'hai? Avevo 38 e 3 di febbre. Cosa pazzesca, dai. Lo so. Andrea da Pesaro, vai 800 24 00 24. Gli intersessuali, stupendo. Salve, Cruciale, mi dispiace di essere di umore nero, però anche se è venuto cioè, a partecipare, se è possibile, con voi allo scherzo che fate sugli intersessuali. Io oggi ho visto una cosa che a 55 anni non pensavo mai. Cosa? Di poter vedere. Cosa? E mi ha sconvolto, anche se ne ho viste tante, ho visto purtroppo, ho visto il bruciato vivo il pilota della Giordano, ve lo ricordate, no? Sì, sì. Ho fatto l'errore. Allora oggi ne gira una messa in giro da Libero, sì. Quindi dal giornale che voi conoscete. E allora? Ed è sconvolgente. Ma cos'è? È un video fatto a Berna in Libia in cui l'ISIS ha preso uno che secondo loro era una spia e prima gli ha strappato le braccia, legandolo vivo a due camion e poi dopo l'hanno trascinato agonizzante con le braccia strappate per la strada. Allora io sì. Una cosa come questa non volevo vederla nella mia vita, l'ho vista sì. E a questo punto mi sono, come dire, sono arrivato, scusate, ma sono veramente sconvolto. Vabbè, dimmi, sei arrivato? Sono arrivato a questa considerazione sì. E mi appello all'articolo 21 della Costituzione, perché sennò qualche amico catto comunista, PM, amico di Parenzo, magari mi indaga sì, verificazione sì. all'odio razziale. Con gli arabi non si può ragionare. E dunque? Fino ad ammazzarsi tra di loro dove vogliono, facciamo il muro, chiudiamola qua, quelli che si comportano bene, forse ormai ce li teniamo, il primo che sgarra fuori a calci nel culo, ma non ci potrà questo mai essere l'integrazione. Come Diego Volpe bestie. Pasini sembra questo. Sì, sì, è vero. Ha lo stesso tono di voce di Diego Volpe Pasini. Cioè, okay, allora che bisogna fare? Non lo ho stesso capito. Livello intellettuale anche, ovviamente. Che bisogna fare? Vaffanculo, Parenzo, vaffanculo, te i cattocomunisti come Diego te, Volpe Pasini. Il che hanno rovinato. Parla, l'Europa. Ho detto solo questo. No, l'Europa, il mondo. Quando verranno gli stronzi come voi, quando verranno a casa vostra a bussare e a che bussare. Tu non capisca che sei ebreo sì. forse sarai figlio, sono anche figlio israeliano sì. per quello che insomma sì. può voler dire, però voi non avete capito che questi con questi non si può ragionare, perché l'Islam è il male. E dunque che dobbiamo fare con gli islamici? Con gli islamici che si comportano bene da noi, che ormai sono noi semi integrati, forse dovremmo accettare di tenerci, però basta. La barbarie a questi livelli non è... E dunque che dobbiamo fare con gli arabi in generale? Cosa vuoi che ti dica? Vuoi che ti dica che ci mettono, che bastano un po' di bombe nucleari tattiche? Oppure che bisogna non fare in modo che non vengano? Però a questo punto non si può tornare indietro, non è possibile. Non è possibile. Queste cose non le facevano manco nella Santa Inquisizione nel 1500 e nel 1600. Okay? Dunque con gli arabi basta arabi. Ma insomma, dai, Cruciani, ti sto parlando di un caso che mi ha sconvolto. Se lo vuoi capire bene, se poi vuoi che io ti dica delle cose per andare dentro poi in galera, ma magari mi sotto processo. Ma insomma, hai capito bene di cosa stiamo parlando oppure no? Hai capito cosa? Sono stato chiaro? Ti ho detto che cosa ho visto e che cosa hanno visto le migliaia che l'hanno visto. Gli hanno strappato le braccia vivo. Sì, vabbè, ho capito. Ma è l'ISIS, però, è l'ISIS. Tu dici che tutto l'Islam è così. No, dico che all'interno dell'Islam è l'unico consesso mondiale dove possono accadere certe cose. Ecco, quindi... Parenzo, che dici di questo ascoltatore? Ma che cosa vuoi dire? Ma adesso non si può parlare con l'Islam. Esiste l'Islam politico, quello violento, quello radicale, quello dell'ISIS, e poi ci sono migliaia di islamici, specie quelli che vivono in Italia, che non hanno nessuna intenzione, né sono terroristi, né possono essere avvicinati in alcun modo al terrorismo. Ma questo è un po'... Che la povera giornalista fiorentina, come sfugge, come si chiamava? La Fallaci. Laureana Fallaci, forse era un pochino più, come dire, importante di te. Ma non c'è dubbio, ma Khalid Chaouki. Ma oddio cosa? Ma Khalid Chaouki, ad esempio, Khalid cos'è? Khalid quello è un terrorista? Ma che sei? È un terrorista quello là. È un terrorista quello lì? Dario Livorno, vai, Dario Livorno, vai. Prendi la camomilla col miele. Allora, io vai a casa. Questa trasmissione da circa 3 o 4 anni, ho 25. Sì. 25 anni, quindi sono uno dei giovani ascoltatori della Zanzara, no? Sì. È una trasmissione che adoro, ho sentito di tutto in questi anni, fascisti, nazisti, omofobi, Bonanno, Taormina, Barin, bevitori di piscio, trans, razzi, la Nappi, il cugino fake di Mollica, le prostitute, le donne di Berlusconi, gli scherzi che finalmente hanno smosso le fondamenta del Vaticano, gli xenofobi, Mauro da Mantova, Donato da Varese, e poi c'è la classica mezz'ora di pausa fra un pezzo di trasmissione e l'altro, che secondo me è la cosa peggiore di quelle che ho appena elencato. E l'altro giorno chiama un certo Leonardo e racconta il suo rapporto orale con un trans, devo usare questi termini perché sono le 19:29, e poi arriva Parenzo che fa lì l'appunto, non si può dire, ma perché chiamano noi? Ma perché? Parenzo, ma perché? Ma perché chiameranno la Zanzara? Te lo sei mai chiesto? E perché? Lei lavora in televisione, no? È tanti lei anni, che è lei di Livorno, per se l'è chiesto, sì. Ma ha ragione Leonardo. Ha ragione Leonardo. Ma te lo sei chiesto te o no? Ha ragione perché? Leonardo, perché è uno dei pochi spazi liberi in Italia, capito? Un attimo solo, fermi. Beh, vaffanculo Parenzo, vaffanculo. Te e i cattocomunisti come te che hanno rovinato che hanno rovinato l'Europa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. Il bello del lavoro è che non puoi stare lì a dormire, devi imparare cose nuove. Il bello del lavoro è già il fatto che ce l'hai il lavoro. Quando ti danno un progetto pensi che non ce la fai e poi invece ce la fai. Ma per me è fare bene il lavoro. Il bello del lavoro è che stai in contatto con tanta gente e poi magari ne trovi uno e lo sposi come ho fatto io. È che magari non fai quello che sognavi, ma ti piace lo stesso. E quando finisce? Quando in un'azienda c'è INAZ, le persone hanno solo il bello del lavoro. INAZ, Human Energy. Host Milano, Equipment Coffee and Food, entra nel più grande evento professionale dedicato ai nuovi trend dell'ospitalità. Il Salone Internazionale per l'Oreca e il Retail ti aspetta con oltre 2000 aziende leader provenienti da 50 paesi, centinaia di eventi e performance di chef stellati. Host Milano, dal 23 al 27 ottobre a Fiera Milano. Info su host.fieramilano.it, in partnership con Radio 24. Hai bisogno di una polizza che ti assicuri per qualsiasi spesa sanitaria e sia facile da usare? La soluzione è RBM Easy Salute, che ti garantisce il pagamento immediato di una somma predefinita per ogni cura prescritta dal tuo medico. RBM Easy Salute. Assicurare la tua salute non è mai stato così facile. RBM Easy Salute, il tuo servizio sanitario personale. Scopri Easy Salute e le nuove polizze sanitarie di RBM Salute su tuttosalute.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Cosa chiedi al tuo supermercato? Che magari scegli tu i prodotti in offerta, a seconda dei tuoi gusti. Alla Coop scegli tu. Fino al 31 ottobre decidi quali prodotti tra le grandi marche scontare del 30%. Verifica la modalità nel tuo punto vendita. La Coop sei tu. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Ti seguo sempre, dalla mattina alla sera. Ragazzi, io davvero non ne posso più di questi animalisti estremisti. Non tutti quelli che amano gli animali sono estremisti, per carità. Però ieri, durante la gara di MotoGP, c'è un pilota che si chiama Iannone, il quale già è stato minacciato di morte da qualche imbecille perché ha preceduto Valentino Rossi e gli ha tolto dei punti nella classifica del mondiale. Ma in più ha investito un gabbiano. Apriti cielo. Mica l'ha fatto apposta, dai, insomma. Mentre Rossi è alle prese con questa matassa Cracciolo che lo tiene uno step di distanza. Gabbiano vattene, preso di testa, mi dispiace, povero Gabbiano, sì, è stato distratto, immagino che abbia anche preso un grande colpo Andrea Iannone. Allora qualcuno dice bisognava fermare la corsa. Altri animalisti, ovviamente nessuno ferma la corsa. Basta con quel replay del gabbiano, non vedo il senso di essere così macabri. Ma c'è gente veramente... Ma noi imbecille di più, ma che cazzo ci frega del gabbiano? Sì, vabbè, d'accordo. Beh, no, questo no. Vabbè, però il gabbiano è morto. Apposta, ecco, dai. Il gabbiano è morto, per carità. È stato un incidente. Un altro, senti questo. Un gabbiano stupido e un gabbiano morto, però bastardi, è morto il gabbiano, fermate la gara. Questo non credo. Ah, Emanuele da Roma, dai, 800 24 00 24. Vai, Emanuele. Ciao ragazzi. Dimmi. Guardate, io volevo dire qualche cosa riguardo quello che è entrato vestito da donna. Aspetta un attimo, Emanuele, ma Dario ha finito, Dario? Dario? No, sono sempre qua io. Che volevi dire ancora? Non ho capito. No, volevo dire che comunque, a parte che pare sta borsa, l'unica cosa che somiglia a una borsa adesso è il mio scroto, perché a me non mi frega niente, ho 25 anni, vabbè, ma comunque non importa. Dicevo che Parenzo lavora in televisione da tanti anni e lo sa come funziona quel mondo lì, lo sa benissimo. Ci sono questi programmi che si tengono pilastri dell'approfondimento giornalistico, quando in realtà mascherano del trash, un tripudio di trash. Invece alla Zanzara il trash è valorizzato come tale, diventa satira, diventa ironia e tutti si sentono legittimati a chiamare, perché è l'unico oasi di libertà che è rimasto. Ma scusate ragazzi, ma poi sabato dalla Gruber non c'era una pornostar, mi hanno detto? Cioè sabato c'era una pornostar dalla Gruber, certo, magari parlava come se fosse una professoressa di una professoressa. Ma anche quella è ma è una finzione anche però, quella anche quella. Ma io secondo me è il massimo dell'ipocrisia, certo. Bisogna chiedere il sesso. Sì, poi è andata con le poppe di fuori, eh. Attenzione, è andata lì con le poppe di fuori. Ma ha fatto benissimo. Sta molto libero, ma come si fanno ad emozionarsi con le interviste dei Cruciani, con quest'uomo che apprezza il sesso in una maniera così bella, lirica, e ti ecciti, chiaramente chiami perché ti senti molto vicino a Cruciani, molto vicino ai suoi gusti, capito Parenzo? Sì, involontariamente, perché sì. Cruciani giustamente per alcune cose si tiene bello stretto al suo petto, ti vuole perché involontariamente sei il portavoce della libertà di tantissimi italiani che ascoltano la radio e si mettono lì, si spallano proprio così sul divano e godono perché ascoltano la Zanzara. Due ore in libertà, due ore dove si può dire il cazzo che ci pare, due ore dove si può sentire di tutto, due ore dove non c'è ipocrisia, due ore dove non c'è niente, c'è solo la trasparenza, qualche contraddizione perché ci sta, perché è nell'animo umano e si gode così in libertà. Ma cosa, di cosa ti devi lamentare, Parenzo? Qui siamo in Serie A, capito? La televisione, i programmi sono Serie B, Serie Z, qui siamo in Serie A, capito? Ti devi sentire appartenente, ti devi sentire dentro a questa Serie A, capito? Ma non l'ho chiamato io questo qua, Davide, non l'ho chiamato io. Emanuele da Roma, dai, ciao Dario, ciao. Emanuele, Roma, vai. Ciao belli, allora, dimmi. Volevo dire... Ciao belli, una trasmissione su Radio DJ, tra l'altro. Bravi. Allora, no, dove c'è una mia imitazione che fanno da un po' di giorni, l'abbiamo mandata già? No, non l'abbiamo ancora mandata, la manderemo, dai. Emanuele, allora, volevo dire, parliamo di questo che viene vestito da donna in ufficio. Ragazzi, io voglio dire, io sono costretto a venire con la giacca, la cravatta, c'è un codice d'abbigliamento. Sì. Per carità, uno va vestito da donna. È un po' diverso, allora. È un po' diversa la cosa. Non è che va vestito da donna. Bisognerebbe capire se questo signore. No, ma su questo ha ragione. Ecco, cioè, va così in giro ogni giorno. Ma è un codice, ragazzi. Sì, esatto, ha ragione. Però bisogna vedere. Ogni volta noi siamo sempre. Allora, no, ma hai ragione. La micro minoranza. Cioè, no, Emanuele, allora, questo signore che si chiama Michele Romeo, ha 39 anni. Se va in giro così ogni giorno, ragazzi, quello è. Cioè, o accettiamo che ci sia un transessuale, un intersessuale che può fare l'insegnante, oppure non lo accettiamo. Siccome certo. Le leggi non prevedono che possa essere cacciato, anche se magari non lo volessero, ma tutti, infatti il problema tutti non quelli è della classe intersessuale. No, ma il problema è che ragazzi, vanno preparati i ragazzi a questa roba. Sì, cioè, questo l'abbiamo già detto. E beh, questa è l'unica cosa, No, Emanuele, perché allora la questione è un'altra, Questo qua va in giro sempre così. Oppure è andato a scuola in un modo e poi magari a casa si leva la parrucca, si leva il trucco e torna un uomo. Perché ragazzi, altrimenti bisogna decidersi qui. Cioè, perché vai a scuola in questo modo? Io non lo so, bisognerebbe chiederlo, magari lo cerchiamo. Questo è, Emanuele, non ho capito. A te ti dà fastidio? Vogliono rendere le libertà, vogliono fare sfoggio della propria indipendenza. Perché su questo, però, se uno andasse vestito da G-Robot, non lo fa perché ovviamente capisci che è una cosa da pazzi. Però secondo me è al pari, è paragonabile. Scusate, sarò estremo, però è paragonabile. È paragonabile a che cosa, scusa? È paragonabile andare vestito da donna, nonostante tu sia un uomo, in classe a spiegare matematica, come è paragonabile andare vestito, come posso dire, da carnevale. Perché è così, cioè, ogni ambiente di lavoro... Ho capito, ma se quello in realtà non è travestito da donna, ma va così in giro ogni giorno così, è un altro discorso però, Emanuele. Se vestito ogni giorno così non si sarebbe posto il problema, perché quando l'assumevano sarebbe stato così, quindi non avrebbe... Ma no, perché lo assumono come uomo, no? È evidente che risulta come uomo e non vuole manco cambiare sesso. Fanno il colloquio... gli fanno il colloquio e dici: io sono uomo, però vado vestito da donna perché sono intersessuale, mi sento un po' femmina, un po' maschio. Si doveva vestire da donna. Invece prende, si presenta dopo vestito da donna, è facile così, no? Poi dopo, se uno lo critica, gridiamo tutti allo scandalo. Va bene, Emanuela, Modena, vai. Dimmi. Sono una mamma di... Aspetta, che non sento niente. Andrea da Verona, riprendiamo Emanuela, vai. Andrea, vai. Pronto? Dimmi. Un attimo, se mi dai un secondo che sto a palestra. Ma che cazzo stai facendo, Andrea? Scusami. Sono in palestra. Sei in palestra? Beh, siamo a top. Dopo il lavoro vado in palestra. E che fai? Con la sul tappeto? Con la radiolina? Con il telefono, anche in sto caso. Ma che stai facendo in questo momento? Stavo facendo pettorali. I pettorali. Continua, pettorali continua. Ascoltando i transessuali, capito? Transessuali in classe. Tun tun tun tun tun non tun. Non volevo parlare di quello, però. Di che volevi parlare, Andrea? Quanti anni hai? 34. Allora dimmi. Dai, allora, pompa con i pettorali, pompa, bravo. All'inizio parlavate di Peppe Grillo delle... 3-4 ore, sì. Esatto, non vedo perché non si possono fare solo 3-4 ore. No, ragazzi, non diciamo cazzate, non si può lavorare 3-4 ore. Ci sono i part-time. Ma sì, ma che c'entra quello? No, è chiaro, è un altro discorso. Lui dice tutti, però. Cioè, lui dice tutti. Come modello, lui dice. Lui dice, il modello è quello di 3-4 ore. Amico mio. Ovviamente quando parla così al pubblico deve... Andrea, guarda, io non ho nulla contro Beppe Grillo, non è questo il punto, anzi l'ho pure votato una volta, però io di mestiere faccio un'altra cosa, non faccio il militante di Grillo. Se sento una corbelleria, la dico, che la dica Grillo, che la sostenga Berlusconi, che la proponga Salvini, che la proponga quell'altro. Quando Salvini ha detto del servizio militare obbligatorio, ho detto che è una minchiata, che è una cazzata. Ma infatti, ma è già tanto che ne parlate, è già diverso che altrove è difficile sentirlo parlare, quindi... Ringrazio solo per quello. Io non sono neanche tantissimo Grillino, perché è solo perché è il meno peggio. No, ma io l'ho mandato perché magari lo voterò pure alle prossime elezioni. Io se devo scegliere in un ballottaggio uno del PD dei 5 Stelle, sicuramente voto uno dei 5 Stelle, ma senza alcun dubbio, cioè senza dubbio alcuno. Sì, cioè, ma non proprio a occhi chiusi, se in qualsiasi città devo votare qualcuno, un ballottaggio PD 5 Stelle, voto sicuramente quello dei 5 Stelle. Su questo chi sono i candidati? Scusa, ah, sì, ma tanto quello dei 5 Stelle è uguale, mica decide lui poi, dai, forza. No, perché è meno peggio. Sicuramente è meno peggio. Sicuramente almeno siamo sicuri che non ruba, su questo non c'è dubbio. Non capisco perché allora fate queste uscite e poi non argomentate nemmeno. Cioè no. Ma chi? Non si può chi? Avete detto non si possono fare 3-4 ore. Ragazzi, ma non si può lavorare 3-4 ore a settimana, non si può cambiare il mondo in questo modo. Magari in un mondo ideale uno pensa di poter lavorare 3-4 ore a settimana. Dai, su. È una cosa che cambi da oggi al domani. A step. Ma ho capito, ma uno può avere pure l'ambizione di un mondo in cui, in cui non esiste più la prostituzione, esistono in cui non esiste più la droga, in cui non esiste più quello che vuoi. Quella di lavorare meno siamo in tantissime ad averla. Ma tutti non vogliono, ho capito. E chi è che non vuole stare? Anch'io voglio guadagnare mezzo milione di euro l'anno e lavorare un'ora al giorno. Beh, straordinario. Di cose assurde adesso. Ma parliamo no, perché invece 3-4 ore a settimana è normale secondo te? Dai, forza. Sono cose più realizzabili che un milione, che eccetera eccetera, per dire che ne cazzate, ma anche parlare di reddito di cittadinanza, quando parlate di quello, come se fosse una cosa irrealizzabile. Ci sono i numeri, basta risparmiare su certi sprechi, ovvio che ma si quella fa. È un'altra cosa, quella non c'entra con le 2-3 ore a settimana. C'entra abbastanza, perché se uno c'ha reddito di cittadinanza non è costretto a lavorare per forza, lavora solo quando vuole lui. Andrea, tra un pettorale 2 o 3 ore a settimana, se voi dividete i giorni della settimana, no, 3-4 ore ha detto, scusami, 3-4 ore a settimana, quanto vuol dire al giorno? Cioè, ti rendi conto? Cioè, a settimana quanto vuol dire un'ora e mezza al giorno, se togli il sabato e la domenica. Esatto, il problema che adesso facciamo fatica a fare solo 8 ore. Se fai solo 8 ore ti guardano i colleghi come se avessi fatto un cazzo tutto il giorno. Cominci a avere un plus se... Ma tu che fai di mestiere, a parte farti i pettorali, che fai? Adesso io non vorrei troppo, perché è abbastanza severa come policy la mia azienda, è meglio... Ah, ma che vuol dire? Mica stai stuprando un bambino, scusami Andrea, cioè, stai intervenendo alla radio, stai dicendo una cosa eccetera, sei impiegato, mica ti ho detto, mica mi devi dire se... Sì, nome e cognome. Chi è il tuo capo, nome e cognome, dove lavori? In un'azienda, che fai? Sei dipendente? Sì, dipendente in azienda informatica. Sì, non fai un cazzo, dai, su, cioè, quanto lavori? 6-7 ore al giorno, così, impiegato, timbri, cartellina e te ne vai, che fai? Sì, magari, negli anni 80 forse. Vabbè, vai col pettorale, vai, ciao Andrea, ciao. Ciao, buona serata. Vi voglio benissimo, viva la... La Zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Allora ragazzi, mentre l'Italia ha le pezze al culo, mentre tutti tentiamo di arrangiarci, chi più chi meno naturalmente, chi in posizioni più privilegiate come questa, chi in condizioni meno privilegiate, ci sono dei signori consiglieri comunali a Napoli. Consiglieri comunali. Dove a questo Napoli, avviene? A, a Napoli, a Napoli. Comunale, una città che, come dire, ha un sacco di esigenze. Secondo me tra le prime esigenze non c'è quella di decidere se i consiglieri comunali debbano andare gratis allo stadio, perché fino adesso, siccome il San Paolo, definito dal signor De Laurentiis, presidente del Napoli, un cesso come stadio, perché il comune lo tratta come una merda, cioè io ho delle foto che mi hanno mandato amici da Napoli di come è ridotto, gente che lavora dentro il San Paolo, di come è ridotto uno stadio, che sono terrificanti, cioè il comune ha distrutto uno stadio e dunque il presidente del Napoli ha ragione. Nonostante questo, nonostante il fatto che i consiglieri comunali non abbiano fatto una mazza per migliorare la struttura, eccetera, eccetera, discutono animatamente perché vogliono continuare ad andare gratis allo stadio. Io li farei pagare non solo il biglietto col prezzo normale, ma anche il doppio del biglietto per quello che non hanno fatto a Napoli. Per come quello danno, che non hanno fatto danno a Napoli. C'è un simpatico signore Zimbaldi, si chiama Zimbaldi, non so nemmeno di che partito era, ma non mi interessa, non è questo il punto, non me ne frega niente, è importante anche non saperlo. Può essere di centro, di sinistra, di destra, eccetera. Si chiama Zimbaldi, il quale in consiglio comunale ha detto: beh, noi in comune, ma ce l'abbiamo il pezzo in cui ha detto in comune una cosa del genere? Sentiamo, sentiamo. Oltre ai consiglieri, che credo che se lo merita dopo una settimana di lavoro avendo a che fare con i cittadini, sai, ci possiamo premiare di andare a vedere la partita. Nonostante questo, noi l'amministrazione dona ogni settimana dei biglietti gratuiti alle scuole. Dopo una settimana di duro lavoro in consiglio comunale ci vuole una visitina allo stadio a gratis, ci vuole. Signor Zimbaldi, proviamo a chiamarlo, va. Zimbaldi a Napoli, sono incazzato per questa cosa qua, perché devono pagare il doppio, il biglietto normale, certo. Il doppio per quello che non hanno fatto. Pronto? Zimbaldi? Sì, con chi parlo? Buonasera, qui Radio 24, come sta? Non c'è male, lei? Non c'è male, me la cavo. Beh, senta, ma com'è sta storia che voi volete continuare ad andare gratis allo stadio? E chi lo dice questo? Beh, lei vuole continuare ad andare gratis allo stadio, l'ha detto chiaramente in consiglio comunale. E io ripeterò venerdì nel consiglio comunale quello che è stato frainteso, punto. No, però scusi, lei ha detto che noi lavoriamo tutta la settimana e questo è giusto, per carità, lavorate tutta la settimana. Lei cosa posso confermare? Perché venerdì ci sta un altro consiglio, sempre sulla convenzione ponte. No, d'accordo, però io volevo sapere una cosa. Lei dice, noi lavoriamo tutta la settimana, giusto? Io lo so cosa ho detto. Ma cos'è? Perché lo voglio dire venerdì cosa significa quello che ho detto. No, però scusi Zimbaldi, io voglio capire una cosa, lo stadio serve a rilassarsi? Perché non aspetta venerdì? Ma no, ma scusi, adesso non è, se uno perché se, adesso, no, perché ma perché semplicemente per sapere se uno sa, se uno lo sa prima se è per rilassarsi o no, lo deve sapere prima, non è che bisogna aspettare venerdì per sapere se il relax, se lo stadio serve al relax. Lo vuole sapere lei? Sì. Io lo devo dire alla città. E io ho parlato in consiglio su questa cosa, no? È uscito fuori in consiglio in aula. No, Zimbaldi, quello che ho detto. Io sono d'accordo con lei, lei deve rispondere alla città. Ho lavorato molto sul mio intervento di venerdì scorso. Sì. E adesso vogliono una risposta i giornali, i giornalisti, i media vogliono una risposta, la darò venerdì in consiglio. No, d'accordo, però io voglio, non bisogna aspettare venerdì per capire lei se non vuole aspettare, ma io devo aspettare. No, ma lei, che succede venerdì, scusi? Io lo voglio dire venerdì in aula, se l'argomento si è sgonfiato su una parola che ho detto in consiglio, voglio dare le mie spiegazioni e darò le mie spiegazioni quando sarà il momento del prossimo consiglio. Oggi è lunedì, inizio della settimana. Lei ieri è andato allo stadio? Io ieri no, non sono andato allo stadio. Non è andato allo stadio, dunque non si è arrivato. Stavo incazzato, tutto quello che si è fomentato su questa polemica, no? Normale. Allora, venerdì si fa un nuovo consiglio, si discute sulla cosa e là darò delle... Ma lei perché non se lo paga il biglietto, scusi? Scusi, ma... può essere così cortese aspettare. No, ma questa è una domanda che una domanda a cui si può rispondere subito. Una domanda, io non sto pronto, ho dato delle spiegazioni venerdì, punto, basta. Ma lei avrà dei soldi per pagarsi il biglietto, no? Immagino di sì. Perché ma non so? le posso dare spiegazione venerdì in no, ma su questa cosa qua uno dice non voglio pagare il biglietto. Venerdì prenderò parole in aula e dirò tutto quello che lei vuole sapere. Non mi dica che vuole pagare il biglietto. Dirò tutto in aula. In aula, dirò tutti in aula, certo. Questo è quello che è successo mercoledì, no? Sì, ma non è. Grazie, le lascio una buona serata. Zimbaldi, si paghi il biglietto con i soldi suoi. Ah, ragazzi. Antonio da Foggia, questi incredibile, ma si devono pagare il biglietto. E c'è in Italia questa usanza assurda che siccome venerdì lo richiamiamo. Venerdì, ma che c'è venerdì? La fine del mondo? Che c'è la fine del mondo? Il Consiglio Comunale a Napoli, questi fanno il cazzo che vogliono e poi dicono parlerò in aula. No, l'unica cosa che devono fare questi qua a Napoli per come hanno trattato lo stadio dove ci fu Maradona, dove ha giocato Maradona, è quella di pagarsi il biglietto, cosa che dovrebbe fare ogni consigliere comunale, pagarsi il biglietto. Anzi, a Napoli il doppio. Credo però che in tutti i comuni ci siano lo dei biglietti. Lo so, ma è una vergogna. Omaggio. Ma no, è sbagliato, è sbagliatissimo. Sì, no, è l'amministratore ha maggior ragione però deve la pagare. La ragione forse è che siccome la maggior parte degli stadi sono di proprietà del comune, certo, allora è una consuetudine. Ma io che sono tutti andato tante volte gratis con l'assessore, mi ricordo, con l'assessore di Albertini, amici miei. Ma certo, ma io che cazzo c'entro? A me che me frega, scusa. Antonio da Foggia. Ma certo. Antonio, vai. Sì, ospite, allora, certo. Per una precisazione. A proposito di quell'insegnante che si veste da donna per andare in classe, no? Sì, sì. Il problema lì non è che c'è il pisello, è che c'è il pisello e anche la vagina. No, scusa, attenzione, la vagina c'è una confusione. Antonio, scusami. Hai detto che è ermafrodita. Sì, ermafrodita, però sono un ermafrodito, detto in maniera moderna, una persona intersessuale. No, ma probabilmente in maniera moderna, lo ha detto lui. Sì, ma non credo che abbia vagina e pisello insieme, il signore. Ma quella è la definizione. Cioè tu dici, se è ermafrodito, è quella la definizione, Quindi, Michele Romeo, beh, pazzesco. Poi, quindi, probabilmente, veramente ci avrà qualche... è indefinito come sesso, no? Quindi potrebbe è un uomo, perché all'anagrafe sarà un uomo, ma sì, di fatto fisicamente sarà anche una donna. Dunque, non ci trovi niente di strano che possa insegnare tu? Ma che cazzo ci devi trovare di strano? Non ci trovo assolutamente no, figuriamoci, è una persona molto brava, laureata non so in che cose, eccetera, eccetera, laureato, laureata, quella questo che questo basta, questo è sì, che questo basta. Però ragazzi, non bisogna nemmeno essere ipocriti. Quando uno si presenta in classe, non ecco il professor Michele Romeo, e poi c'è uno con la gonna magari o con i tacchi, con il rossetto, eccetera. Io da adulto a 49 anni mi metto a ridere, anzi sono pure curioso di scoprire cosa c'è sotto, no? Probabilmente io, ma uno di 13 anni, di 14 anni in classe, o si mette a ridere, va a casa e dice: mamma, mi hanno presentato il mio professore, che in realtà c'aveva il rossetto e c'aveva il Se invece i ragazzi ne hanno 16-17, come pagherà lo scotto di quello che fa, no? Lo massacreranno. No, quindi va bene che lui abbia detto questo, poi perché l'ha detto. Alcune famiglie sono incazzate, questo è il punto. Incazzate. Secondo me i ragazzi in classe, non so quanta che età avevano, 16, 15, erano le superiori, credo. Dovevano essere avvertiti prima, cioè uno va là, il preside spiega la situazione, punto e basta. Poi certo, le risatine, qualcuno, ci sarà sempre qualcuno che ride, ci sarà sempre qualcuno che piglia per il culo, no? Come ci saranno altri che se ne fottono e guarderanno solamente ai grafici o agli insegnamenti che questo se scrive sulla lavagna o sull'iPad. Questo è La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, Ascoltato cantone, quello dell'anticorruzione lì, che contro il magistrato dell'anticorruzione, gli ha tirato una bella sberla a Renzi, al dicendo suo amico Renzi che è sbagliato aver aumentato il limite dei contanti a 3.000 euro, dopo avere quello che dicevo io 3 giorni fa. Beh, a me sinceramente non me ne può fregare di meno, te lo dico subito, cioè di questo argomento non me ne può fregare di meno. Beh, per forza. Ma no, ma beh, normale, no? No, ma non sappiamo quali possano essere le conseguenze, no? Non sappiamo, cioè... è abbastanza sì, abbiamo capito. Ba. È abbastanza banale. Sì, banale. È abbastanza banale. Abbiamo perché... accertato, altro colpo a Renzi, che la multa di 500 euro, la multa di 500, poi se la sono presa con i tecnici di non so che cosa, la multa di 500 euro se non paghi il canone della Rai, quello che dovrebbe essere chissà quando allegato in bolletta, non si può fare. Questo anche, l'avevano detto anche prima, eh? Sì, sì. Allora, William da Pavia. Salve, buonasera. Salve, volevo intervenire riguardo al professore del liceo di Udine. Io ho 22 anni, quindi ho finito la scuola da pochi anni. Io sinceramente mi sarei trovato in imbarazzo di fronte a una situazione così, perché comunque io penso che si può essere quello che si vuole, e giustamente lui dice che madre natura l'ha creato così, ma non è accettabile in una situazione formale e... soprattutto così delicata come una scuola, mostrare certi atteggiamenti che possono distrarre sicuramente gli studenti dall'obiettivo della scuola. Non ho capito bene, tu hai quanti anni? 22 anni, benissimo. Se ti fossi trovato di fronte a un insegnante transessuale, intersessuale, quello che è, come avresti reagito? Vabbè, non lo sai perché non ti è successo. Sì, avrei cambiato classe sicuramente, perché cioè sicuramente mi sarei sentito in imbarazzo di fronte a questa situazione, ma non perché si tratta di una situazione intrinsecamente imbarazzata, perché appunto in un ambiente come la scuola non ti aspetti una manifestazione, una esibizione di questo tipo, insomma. E lo dico io che sì, ma magari non è un'esibizione, capito? Cioè, se uno va in giro così ogni giorno, magari a casa si leva il trucco. Però capisci che dall'oggi al domani, mi pare. Come dall'oggi al domani? Mi pare che sia capitata dall'oggi al domani, cioè non è una cosa che era già avvenuta, no? Ma che vuol dire dall'oggi al domani? Non ho capito. No, vuol dire che nessuno in quella scuola sapeva che questa persona è un intersessuale. Beh sì, il preside immagino di sì, prima di assumerla no, perché sennò non ci sarebbe stata evidentemente la sorpresa, no? Oppure fino al giorno prima andava a scuola vestita normalmente, no? Credo che sia così, perché altrimenti si spiega. Andava, insegnava anche in una scuola di Trieste, andava nello stesso modo. Ha scoperto dopo, cioè ha manifestato anche, magari lo faceva in casa, ma ha preso coraggio dopo di questa cosa. Altrimenti sarebbe uscito prima, peraltro, il caso, scusa, ma Ior non c'è logica. Da Verona, dai, Ior da Verona. Sì, buonasera, volevo parlare di Grillo. Sì, vai. Allora, secondo me Grillo ha ragione in parte ha torto. Ha ragione perché... una delle leggi della natura è chiamata legge della minimazione. Se noi facciamo cadere una pietra dalla torre di Pisa, quando cade a terra non fa un zigzago delle circonvoluzioni, ma compie il minimo percorso possibile. Questa è una legge di natura, che significa la natura può suggerire fai meno se vuoi avere di più, fai di meno se vuoi avere il di più, ma se vuoi avere tutto devi imparare a non far niente. Ora, non far niente non vuol dire girarsi i pollici, non far niente vuol dire essere svegli. Cioè oggi noi abbiamo la possibilità di misurare il livello di vigilanza della persona, quanto nel senso. Sì, però amico mio, andiamo sulle cose concrete. Come fai a dire che Grillo ha ragione quando dice che bisogna lavorare 3-4 ore a settimana? Concreto è che nella vigilanza. Nella vigilanza, ma che vuol dire la vigilanza? Ma che cos'è la vigilanza? Che fa la natura o no? Ma che cos'è la vigilanza, amico mio? Vigilanza è essere svegli. E allora? Allora, nella misura in cui l'uomo è sveglio, la natura opera di più per lui. Noi già vediamo la natura operare perché fa la più parte del lavoro. Allora, io però mi metto nei panni di un, che ne so, del direttore di un reparto della Fiat, no? Si avvicina un'opera e dice: scusi, io sono in vigilanza. Cosa vuol dire, caro signore? Glielo spieghi tu che cosa. In vigilanza vuol dire io sono sveglio. Ma ho capito, ma di che parliamo? Devo fare la macchina, capito? No, aspetta un attimo. Cioè, il lavoro può anche essere un piacere, nel senso lei che fa il suo lavoro credo che lo fa anche perché no, ma è vero quello che dice lui. È pesante, tra virgolette. È pesante un lavoro quando uno non lo fa volentieri o quando uno si stressa. No, ma su questo ha ragione, perché ad esempio a Google è dimostrato che il modo di produrre di Google è un modo in cui ci sono molte ore in cui uno non fa nulla. Sì, ma sì, ma d'accordo, ma che vuol dire? Sì, è proprio come dire, nella struttura di quell'azienda. L'architetto anche chi fa lavori manuali non è creativo sul cantiere, è creativo nel silenzio del suo ufficio, del suo studio. Cioè la creatività, oggi se noi vediamo per esempio uno studio che ho visto, il numero di brevetti fino al 1910 e il numero di brevetti dopo il 1910 in base alla popolazione mondiale, secondo voi è aumentato o diminuito? Non lo so. Diminuito. È diminuito. E perché è diminuito? Perché l'uomo ha perso la creatività. Stiamo parlando in numero Sì, ma d'accordo, può darsi pure che il lavoro meccanico non si accompagni con la creatività, sicuramente. Però Grillo parlava in generale, parlava di 3-4 ore a settimana come modello universale. Sì, esatto. E Cruciani, lei quello che può vedere, se lei ha gli occhiali gialli, può vedere solo giallo. Se io, se Grillo 3-4 ore al giorno, io non sto dando ragione a Grillo, però gli do anche ragione. Se io gli occhiali blu vedo blu, io non posso dire a lei guardi che il mondo è blu, perché lei vede giallo, io posso casomai cambiare gli occhiali. Voglio dire, lo stato di coscienza, vuol dire di consapevolezza, è diverso. D'altra parte, è ho capito, cosa, però non se ne ho capito, ma uno non, quando no, programma una società. Ultima cosa, Curciano, ultima cosa. Quando mai le persone non hanno visto le mele cadere dalla pianta e andare a scostare per terra? C'è voluto un minuto, cosa ha fatto un minuto di diverso dalle altre persone? Si è chiesto perché le mele cadono. Vabbè. Quindi vuol dire che era sveglio. Ior, perché lei si chiama Ior? Perché io mi chiamo Ior, sa che ci eravamo sentiti 2 anni fa. Sì, ma perché ti chiami Ior? Perché ti chiami Ior? Come Ior, lo Ior del Vaticano. Ior. Sarebbe con la J, ma siccome nei tempi, io ho 66 anni, quando mi hanno registrato hanno dovuto mettere la I perché la J non si poteva mettere. Gior sarebbe da Giordano, colui che scorre, se vuole andare nel nome. Siamo al top dei nomi. Ciao, Giordano. Con un proiettore, nel Duomo di Messina, hanno proiettato delle minchie finte. Allora, qualcuno ha pubblicato, credo oggi o ieri, sul Corriere della Sera, delle memorie del signor Hitler. Sì. Sono venute fuori delle cose meravigliose. Sulle donne, per esempio, no? Nel piacere che una donna prova a farsi bella entra sempre un elemento torbido, qualcosa di perfido. Sposare una donna per Hitler, sarei costretto a vedermi sempre di fronte un viso afflitto e crucciato. Oppure dovrei trascurare i miei doveri. Molto meglio avere un amante. Così si aboliscono gli oneri e tutto diventa un regalo. Naturalmente, pensa come te su questo. Naturalmente ciò vale soltanto per gli uomini di eccezione, dice lui. Avevamo dei momenti di grande modernità da questo punto di vista. Avete Hitler, dei punti in comune? No, tu, lascia perdere il sottoscritto. Non mi accostare a Hitler adesso, ad esagerare. Su questo punto, ma in nello specifico. Ma no, però su questo punto, poi che magari anche sul punto dei Rom, la pensate uguale? No, su quello. Non dire cazzate, dai, su. Non lo so, però. No, magari, sai. Dai. Poi dice: sono sicuro che Nerone non ha mai incendiato Roma. Furono i cristiani bolscevichi a farlo. Ah, bolscevichi, già all'epoca. C'erano già i bolscevichi. No, non pensava romani. Ai bolscevichi, lui metteva i cristiani. Sì, ho capito, usare la parola bolscevichi come epiteto negativo. Poi si sfoga contro la mafia dei cuochi, è sempre Hitler che parla, la mafia dei cuochi, questi re delle padelle che sono tutti degli idioti contro ridicoli. Master Chef. Dove è finito il vecchio pasto fatto di un piatto solo? E devo dire che anche qui anticipa molte delle polemiche che ci sono adesso. La mafia dei cuochi, questi re delle padelle sono tutti degli idioti ridicoli. Dove è finito il vecchio pasto fatto di un piatto solo? Vedi che lo leggi quasi compiaciuto. No, ma potrebbe dirlo chiunque. Comunque, così parlò Hitler, è un libro di Murcia. Gianni da Roma, vai Gianni. Alla redazione. Dimmi Gianni, dimmi. Gli ascoltatori. Sì. No, dunque non erano i bolscevichi, erano i mescevichi, quelli più moderati. Vabbè, allora? Allora, volevo segnalarvi uno spot pubblicitario promosso dal Ministero della Salute e mandato in onda dalla RAI. Sì. Sì, quello con Frassica. Allora, quello con Frassica. Sì, l'ho visto. Sul fumo, su che cosa? Molto bello, molto bello. Tra l'altro, questo spot recita così: chi fuma è scemo. Ma sì, ne abbiamo già parlato una volta con Fracci, quella Carla Fracci. Con ora Fracci io qui. Vi premetto che sono fumatore. Sì, anch'io. Dunque ti ha dato dello scemo questo spot. Ma è vero, ha ragione. Scemo, ma non solo a me, pure a voi. Io fumo e mi sento scemo, certo. Semplicemente me ne sbatto i coglioni cioè Gianni, il fatto che io fumo il sigaro, ma insomma il fatto che uno spot contro il fumo mi abbia dato dello scemo perché fumo, sinceramente, si sa che fa male, sinceramente me ne fotto, guarda Gianni, no, però un attimo. C'è il mio amico Facci che è indignato per questa cosa, ma chi se ne frega, facessero tutti gli spot che vogliono, è anche giusto, è meglio non fumare, su questo non c'è dubbio. Lasciamo perdere quella puttanata che vogliono fare delle multe per chi è in auto giustissimo, e in presenza di bambini eccetera. Perfetto, eccetera, cosa giustissimo, inapplicabile. Sequestro totalmente della patente, bisognerebbe tolta la patente anziché punti, tolta la patente a chi fuma in macchina. Che follia totale, dai. Assolutamente. Dimmi, già tanto non lo farà nessuno, per cui... io sono un fumatore, vai, però non fumo in macchina. Allora? Luciani e Parenzo, stiamo calmi, perché io non ricordavo con precisione il significato della parola scemo. Domani scriverò un pezzo su Facebook perché sono scrittore di satira. E allora? Allora vado a guardare il termine, il lemma scemo, e tra i sinonimi, oltre al sostantivo e all'aggettivo, trovo scritto scemo, deficiente, cretino, imbecille, sciocco, insulso. Ora voglio dire, anche noi fumatori abbiamo il diritto di non essere scemi, e vi dirò che poi ho sentito il Ministero della Salute attraverso l'urto ufficio Relazioni Pubbliche, attraverso l'ufficio stampa. E allora ti sei incazzato? Pare che questo spot sia costato 6 mesi di lavoro, sì, sicuro, con tutte le segreterie. Avranno buttato soldi sicuro, più di quelli che normalmente si possono utilizzare. Mi sembra normale dare degli scemi o dello scemo? Vabbè, è un modo per comunicare la contrarietà al fumo e le campagne antifumo. Passano anche attraverso, come i pacchetti, no, che ti mostrano le foto del cancro, eccetera, eccetera. No, sono terribili, fanno ribrezzo. Però magari qualcuno smette di fumare. Certo, secondo me dando dello scemo a qualcuno non succede nulla, Bisognerebbe riflettere sul tipo di campagna, mica perché danno dello scemo a qualcuno. No, un attimo, tra l'altro mi è stato risposto che era per convincere i ragazzi a non fumare, ma allora... Ma figuri, i ragazzi fanno una pernacchia e dicono a deficiente, a stronzi, ma che ci frega se ci chiamate scemi, dai, su, questo è veramente ridicolo, ciao. Non è bello ciò che è bello, ma che bello. Lasciativo, Parenzo, e alla defecarsi non ci penso. La Zanzara. Vi faccio ascoltare questa mattina Salvini, che ha parlato da Milan del canone della Rai, dicendo che non paga il canone perché non possiede un televisore. Lei lo paga il canone della Rai? Io non ho il televisore. Beh, ma lo sa che anche con... questa è una notizia. E io dovrei pagare il canone Rai perché ho l'iPad? Secondo la legge, quindi lo paga o no? Lo paga? Ma non ci penso neanche. Allora, no, questo per dirvi, un ascoltatore mi ha mandato questa cosa meravigliosa. Scusi, ma perché devo pagare il canone Rai in bolletta se non ho un televisore? Che è la stessa cosa che ha detto Salvini, no? Perché ha un computer, ma io non lo uso per guardare la TV e tantomeno la Rai. Se uno non lo usa per guardare, perché oggi il computer... No, è obbligatorio lo stesso, ma lasciamo perdere, ma non è questo. Io non lo uso per guardare la TV e tantomeno la Rai. Sì, ma è il computer che è uno strumento atto a farlo, quindi deve pagare. Dice il cittadino: va bene, posso avere il bonus bebè? Ma lei non ha figli, dice il funzionario statale. Sì, ma ho l'uccello che è uno strumento atto a farli. Bella immagine. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, sto apprezzando, vi sto apprezzando. Mirko da Sondrio, vai Mirko. Ciao Cociani, ciao Parenzo. Niente, io volevo parlare del discorso dell'insegnante Michele, vestito da donna. Ok. Guardi che l'ermafrodita è un genere a sé, perché non è nessun genere, perché ha sia gli organi sessuali maschili, sia quelli femminili. quindi non è né un maschio né una femmina. Sì, ma non ha la figa però, cioè... Sì, c'ha il pisello e c'ha la figa, c'ha tutte e due le cose. No, non credo, sì, non credo. Informati, no. No, ma è quello classico, questo qua si chiama intersessuale, lui si definisce... No, vabbè, ma se lui ha detto che è un ermafrodita, adesso si dice intersessuale, lo puoi chiamare quello che vuoi, però allo stesso tempo l'ermafrodita... No, lui ha detto in un'intervista, ma abbiamo un audio perché è stato intervistato da un giornale locale, sono un ermafrodito, detto in maniera moderna, una persona intersessuale, non inquadrabile nei due ambiti, che sono il maschio e la femmina, mi collochi in una zona centrale molto ampia, beh, insomma, molto ampia, non credo. Vabbè, scusami, lui ha detto che è un ermafrodita, se è un ermafrodita, per definizione, ha sia l'uccello che la vagina, quindi a tutti gli effetti, più ampio di così. No, non lo so, non so. Mi sembra un dettaglio, però, rispetto a tutto il resto della storia. Non è un dettaglio, perché, cioè, io conoscevo una persona che si chiamava Marta, e lo vedevi, era un uomo, e ovviamente gli ho domandato il perché, e lui fa, perché i miei genitori mi hanno messo Marta, ma io mi sento più maschio che donna, ho tutti e due gli organi sessuali, e se i miei genitori mi hanno chiamato Marta e io voglio chiamarmi Martino, non è colpa mia di quelle che scelta hanno fatto i miei genitori appena sono nata. Però io ho sia la vagina che il pisello, e un ermafrodita è fatto così, quindi giustamente, siccome un ermafrodita non gli si vuole dare diritto al lavoro. No, per carità, ma nessuno dice che non può insegnare, anzi uno laureato, molto esperto delle materie, fisica, matematica, insegna in questo istituto, ha già insegnato a Trieste, certo che una spiegazioncina ai ragazzi prima che il signore barra signora barra ermafrodita barra intersessuale, prima che entrasse in classe forse gliela si poteva dare, così o no? Ma sì, ma fino a un certo punto, nel senso che... Allora, il signore arriva il vostro insegnante di fisica e di matematica, si chiama Michele Romeo, ha 39 anni, è laureato in fisica, una persona molto... I ragazzi si aspettano che entri un maschio ovvio, bello sì. Fatto, no? Arriva uno invece col rossetto, con lo sguardo un po' così femmineo, eccetera. Io dico che, per carità, va benissimo, poi conta quello che insegni, però esatto. Forse una spiegazione andava data, o no? Vabbè, ma la dai a dopo, cioè a quel punto, intanto se la davi prima cosa cambiava? Nulla. No, però preparavi magari preparavi i ragazzi a cosa? Una volta che glielo dicevi, vedevano come quando l'hanno vista. Comunque, io a parte che a quell'età lì non c'è nulla da preparare perché i ragazzi sanno tutto. Quindi esatto. Questo, beh, no, l'ermafrodita, forse no? L'ermafrodita a quell'età lì, ragazzi, la spiegazione tecnica dell'ermafrodita, non sanno lo so. Tutto. Ma bisogna vedere se ha anche la figa insieme al pisello. Sì, no, adesso cioè, questo... l'ermafrodita, cioè sia gli organi genitali maschili sia femminili. Questo va indagato, Parenzo, su questo si bisogna indagare. Indaga anche subito, apri Google, mettilo su e vedi. No, non la definizione stessa, se lui è davvero, perché allora perché si definisce anche intersessuale? Bene. Bisogna vedere perché si definisce. Perché adesso probabilmente io non sono, come si dice, aggiornato su come si vogliono chiamare nemmeno io. Transgender, le queens, i vecchioni, le lesbiche, è lo stesso, è tutto uguale. Se diventiamo intersessuali, ma alla fine è un ermafrodita, e il termine italiano è ermafrodita. Poi ho capito. Ciao. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. Questa era la signora Luxuria. Ruggero, hai capito che cosa bisogna fare per allargare la mente, dice Luxuria? Oh mamma. Beh, veramente sembrerebbe dover allargare del lato. Comunque lasciamo perdere, insomma, mi pare che a livello di strutture ce ne sia abbastanza, quindi... Maurizio Ruggero, ancora in circolazione questo qua. Addirittura in cattedra bisogna anche spiegare un ermafrodita, ma siamo a sti livelli qua. C'è un insegnante, è vero che insegna fisica, a parte che nelle scuole italiane non lo so, sarebbe quasi meglio chiuderle. Ancora comunque, in circolazione, diciamo, visto il livello di ignoranza circa, ivi incluso l'elemento giornalistico. Però dico, a parte questo, dico, ma anche l'elemento morale conterà qualcosa. Ma perché, Ruggero, no? Io non ho capito una cosa. Tu sei il presidente di tu sei il presidente di Sacrum Imperium. Sì, d'accordo, tu sei il presidente di Sacrum Imperium. Quale Sacrum Imperium? Sì. Cattolico, ma tradizionalista. Sta facendo una battaglia pazzesca contro questo Papa, tra l'altro, signor Ruggero. Ovviamente, a essere onesti, contro questo Papa milita se stesso. Contro questo Papa, quale Papa? Punto di domanda. Beh, come quale Papa? In questo momento c'è un Papa. Disconosci il Papa? Abbiamo un distruttore della Santa Chiesa, questo è un altro discorso, ma non è il Papa. Capito, però, così, ufficialmente il Papa, però, o no? No, è stato. Allora, non è che uno. A parte che secondo Socci è stato eletto in maniera illegale, è stato. Va bene, ma il problema non è quello di procedura, il problema è di sostanza. Per essere Papi bisogna avere la fede cattolica. Ah, tu dici addirittura non ha manco la fede cattolica, un eretico. Sei tu a dirlo, non ho capito. Se uno è eretico, no, basta semplicemente i documenti. Perché Parenzo, ovviamente, conosce molto bene la bolla di Paolo IV che stabilisce questo, cioè che un eretico non può accedere al pontificato e non può neanche deprerlo se diventa eretico. Ma scusa, quindi, dimmi un motivo per cui è eretico. Perché è eretico il Papa? Ah, molto semplicemente, basta solo vedere, allora, uno che dichiara che Dio non è cattolico, io dico, uno che dovrebbe essere Papa, almeno questo glielo possiamo chiedere, che ci dica che Dio è cattolico, oppure ci deve negare anche questo. Uno che fa pressione sullo pseudosinodo affinché si apra ad adulteri, concubini e sodomiti, perché questo è quello che sta succedendo, vero? Ma non è che ha detto, non è che vuole aprire anche i sassi, Ruggero non vuole aprire i sodomiti, dai, diciamo la verità, non vuole aprire i sodomiti, vuole solo aprire i sodomiti e agli adulteri e ai concubini. Ma non c'è bisogno di aprire. Io ancora non mi capacito che Maurizio Ruggero viva dicendo queste cose, cioè campa dicendo queste cose, questo non mi capacito ancora io. Vabbè, secondo te un trans o un inter, tu sai che cos'è un ermafrodita? La domanda è a Ruggero oppure no, a Ruggero. Beh, dunque, allora esiste questa teoria gender per cui sono stati inventati 23 sessi diversi. Adesso le leggo, sono 60, quindi una meraviglia. Ma dove l'hai letta sta cazzata? Dai, ma che 23 sessi? E non è colpa mia se le vostre commissioni, inclusa quella australiana, era quella di 23. Ruggero, io vorrei capire se tu sei riuscito finalmente a fare qualche cosa nella vita, nella tua vita sessuale, cioè se hai scopato o no. Io vorrei sapere se mi hai chiamato per parlare di Bergoglio oppure se per parlare di me stesso, perché dall'alto della sozzura, dall'alto trono di sozzure da cui voi parlate, vorrei sapere sozzura, a che titolo da giudicare quelli che invece, amico mio, non ci verrei mica a raccontare che tu a oltre 50 anni ancora sei vergine. Sì, ma fosse vero, fosse vero, Ruggero, sei malato, sei malato, sai che sei malato. Professore, o devo avere Cruciani e Parenzo, che tra l'altro manco è battezzato come professore? Io, scusami, Maurizio, tu una volta mi hai detto che ancora sei vergine, giusto? Io ho detto sempre che io mi sforzo di rispettare quello che è il comandamento che dà Santa Chiesa. E cioè, cosa dice la Santa Chiesa? Che chi non è sposato non ha relazioni sessuali. Dunque, tu sei sposato? No. Allora, capisco che in questo momento in cui si vorrebbe dare la comunione a sodomiti, adulteri, concubini e avanti, vabbè, no, ma io però scusa una cosa strano, altra a questo, scusa, ma tu allora, non essendo stato sposato, dunque tu sei una vergine, volta per tutte, sei vergine, chiariamolo una volta per tutte, no, ma una volta, perché chiariamo questo, non hai relazioni? Ma tu mi hai chiamato per parlare di me? No, ma è una parentesi, proprio un'altra cosa, se devo parlare è una parentesi, Ruggero, una parentesi, sei vergine o no? Definitiva. Ho scritto, come ho già detto, e siccome appunto ripeto, Cruciani non ha la veste di confessore. Allora, il sottoscritto dice appunto che rispetta o cerca di rispettare il più possibile naturalmente quello che è il mandato della Santa Chiesa, allora? Cioè che uno che secondo il proprio stato non è sposato non ha relazioni, punto, e questo devi fare. E dunque? E fra l'altro ci sono schiere di persone che non sono sposate, a cominciare dai preti ma anche dai laici. Ma i preti scopano come matti, come abbiamo letto e appreso in questi giorni. Quelli sono i preti ai vostri amici, quelli sono i preti bergoglisti, quelli che hanno una vita meravigliosa. Ma voi i preti di Bergoglio scopano, quelli che elogiano il Concilio Vaticano II ogni giorno, perché naturalmente facendo vita scandalosa, normale che però io ho una curiosità preliminare, diciamo, la giornata di Ruggero, cioè uno così, no? Che fatto? Cioè, no, prega. No, ma voglio dire, ma tu sai cosa fa? Io ho il rosario oggi, infatti. Ma cosa fa? Se lo dicesse anche Parenzo, ho detto è giudeo. Ma ogni tanto una masturbazione è prevista, una pipetta. Ma cosa fa tutto il giorno? Poveretto, corno. Non è prevista la pipetta, non è prevista la masturbazione. Tante sozzure, non le direste, no? Tante porcherie di cui no, ma cosa fa un cattolico tradizionalista tutto il giorno? Questo voglio capire, questo il presidente del Sacrum Imperium, proprio, in 30 secondi, cosa fa? Allora, si sveglia la mattina a che ora? Alle 7? Alle 8? A che ora? Allora, poi dopodiché organizza i vari eventi, le cose da scrivere, le relazioni che deve tenere con le persone, via dicendo, avanti. Prega, così, quindi fa un primo rosario la mattina. Anche la vita di preghiera, è evidente che... Ma io voglio capire una cosa, i trans, secondo te, che cosa sono i trans? E cosa sono per lui? Sono un misto, di maschile e di femminile. Questo lo sappiamo, Io. Ma come li inquadri te? Cioè sono malati, sono persone che vanno punite, sono persone, allora, sono persone che ne so, che hanno un problema e alla fine finiscono si sparano. Allora, che esiste un tasso di suicidi molto grande fra i trans, non c'è il minimo dubbio, purtroppo. Ma non è vero, non è così. Televisivo, come non è vero? Ma dicono persino i tuoi amici sodomiti, Parenzo, dai, di la verità, è così, insomma. Ma dai, non è così. Alto tasso di suicidio tra i trans. In dai, alcuni ambienti c'è un po', quello succede. Ma scusa, nei giorni scorsi, Ruggero ha detto anche che tra pedofilia e omosessualità c'è un collegamento. Ce l'ha detto pure questo. Questo è matto. Assolutamente evidente. Ma cosa è evidente? Avete seguito i casi di quei preti che si erano macchiati e dell'uno e dell'altro? Cioè, secondo te, un omosessuale è anche pedofilo? No, non è automatico, però la pedofilia è una branca no, dell'omosessualità. Ma dai, anche su, ma non Luca, dire cazzate. Ma è pieno di pedofili, lei, Ma è pieno di pedofili che sono eterosessuali. Non dire cazzate, dai, su, pieno. Ma che c'entra? Non c'entra niente, non ha a che fare con l'omosessualità la pedofilia. La pedofilia è una cosa a sé stante, che non ha niente a che fare. Allora, diciamo agli ascoltatori che siccome Cruciani e Parenzo sono due incalliti omofili, cioè sostengono in tutti i modi l'omosessualità, devono dire questa scemenza, e cioè che non c'è niente che accomuni la pedofilia all'omosessualità. Ma nulla. Invece esiste nulla. Nulla, non è nessuna relazione. Ma io spero che ti denuncino tutte le associazioni gay su questa cosa qua. Tu stai accostando l'omosessualità, che consideri peraltro un peccato gravissimo. E chiudiamo sta pantomima del sacro impero. Un peccato gravissimo che attira castighi dal Padre Eterno o ogni peso spinto. Un peccato gravissimo. Da Sodoma in avanti. Non a caso i conciliari come Bergoglio, chissà perché, mondanamente costeggiano queste cose, no? Cioè, secondo te lui è a favore della, lui è a favore dei gay, Bergoglio è a favore dell'omosessualità apertamente. Dunque, io non so adesso se tu cosa volevi dire con apertamente, cioè io ti dico che al sinodo, a parte che devo dirti la verità, ho letto una cosa nei giorni scorsi, Parenzo, scritta da Magister, da sì. Magister è un famoso vaticanista dell'Espresso, sì. Il quale ha scritto una cosa che Bergoglio si è circondato di gay, cioè c'è una lobby gay, l'ha scritto Magister, non è che lo dice Cruciani, non lo dice Parenzo, Magister ha detto che Bergoglio si è circondato, cioè ha popolato il Vaticano di omosessuali. Questo, ma mica gli ha chiesto detto in senso negativo, e questo però è quello che ha scritto il signor Magister, cioè c'è una, da quando c'è Bergoglio, allora, c'è intorno al Papa una lobby gay, cioè c'è intorno una, lui ha piazzato in molte posizioni, ha piazzato, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, ha piazzato degli omosessuali. Fermi tutti. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblico. Invesco per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Si sta per arrivare un grande momento alla Zanzara, momento in cui spiegheremo una cosa fondamentale che accade soprattutto alle donne, anzi solo alle donne. Dunque molte donne che ascoltano la Zanzara avranno spiegazioni, diciamo, esaustive su un fenomeno abbastanza diffuso. Ma, importante. I bambini all'ascolto. I bambini all'ascolto possono tranquillamente restare all'ascolto. Sei sì. sicuro tu? Sì, assolutamente. No, io sì. non so di cosa tu voglia parlare. Ma lo sai, credo. No, non lo sai, forse non, no, lo, sai. Non, lo, so. Bene, non lo sai. So che c'è Ruggero, che è una persona. Oh, Ruggero, l'amico Ruggero, una volta diede il suo numero di telefono, sì. siccome ha definito, ha testé definito l'omosessualità vicina alla pedofilia, anzi una costola, cioè la pedofilia è una costola dell'omosessualità, e dovresti vergognarti, Maurizio, per quello che hai detto, vergognarti, capito? Credi voi di essere figli omosessuali tutti i tanti giorni, ma chi sei? Ti devi vergognare di aver accostato la pedofilia all'omosessualità, ma no, sono due cose diverse. Ma no, allora, ma se volete rompere i coglioni, lui è un teppista della fede, sei un teppista della un black block della fede, sei. Allora, teppista della allora fede. Ruggero, no, siccome hai rotto le balle su questa cosa qua della pedofilia, cioè non hai rotto le balle, hai detto come la pensi, ma hai detto una cosa orribile, secondo me. Una volta hai dato il tuo numero di cellulare qui alla Zanzara. Io spero che ti rompano i coglioni su questa cosa qua. Magari ricevi telefonate in cui la gente è d'accordo con te, però ripetiamo un po' il numero che diede. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. 347-360, com'è la cosa? Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. Allora, come l'altra volta ho avuto una marea di telefonate favorevoli, così sarà esattamente questa volta. Non credo proprio. Devo ringraziare come d'altra parte, è logico. Cioè, non è che tutte le persone hanno portato il cervello all'ammasso. Anche ieri, che ero a Venezia per una rievocazione storica. Una rievocazione storica. Uno, che piacciono tanto a Parenzo. Ma uno la domenica va a fare un picnic, va con la fidanzata su una panchina a pomiciare. Non va a fare le rievocazioni storiche. Dai che sono malato oggi, non posso arrabbiarmi. È stato anche, vero? Alla televisione. Ma poi una rievocazione storica di che cosa? Vabbè, scusi, ma, no, ma chi se ne frega? No, dai. No, ma una rievocazione storica di cosa? Perché anche questo è curioso. Della battaglia di Lepanto. Cioè, tu hai capito? Uno la domenica. Ci fu la rievocazione di Lepanto. Ognuno fa il cazzo che vuole, però, nella vita. Per carità, e vai a Lepanto, la battaglia di Lepanto. Benissimo. Mi sembra che sia di estrema attualità. Comunque, al di là di questo. è interessante vedere come tutte le persone sensate che hanno mantenuto la ragione, che ti dicevano, non soltanto sono ovviamente contro il gender, contro l'omosessualismo selvaggio che voi sapete domani a sera servendo i vostri padroni, su Bergoglio sono persone che ovviamente hanno maturato un giudizio estremamente critico. Naturalmente il bello è che se sono del mondo politico queste persone se lo dicono in privato e in pubblico no, ma ormai il re è nudo, cioè tutti hanno capito che Bergoglio è uno sfascia chiesa, vero? Uno tutti sfascia chiesa, che siamo di fronte a un antipapa. Va bene, fermala, resta lì. Abbiamo con noi innanzitutto una mia amica che è una giornalista di Cosmopolitan che si chiama Maria Elena Barnaby. Eccoci qua, buonasera. Ecco, buonasera, ciao a tutti. Allora Maria Elena, devi sapere, caro Parenzo, che è una che scrive di sesso. Bene, scrive molto sempre bene. Di sesso. Bene. Allora io voglio subito chiedere a Maria Elena, come si fa a campare scrivendo di sesso? Cioè, dopo un po' non riesci più a fare niente anche nella tua vita privata, oppure riesci lo stesso? Riesci lo stesso o no? Ma certo che riesco lo stesso, scusa, sarebbe come chiedere a uno che scrive di finanza che non riesce più a spendere, cosa vuol dire? Quello però che scrive di cucina che non magna, cioè che discorso Però scrivendo sempre di sesso continuamente ti può venire a noia, cioè hai sempre bisogno di cose nuove, cioè per niente, anzi è divertentissimo, si scoprono sempre un sacco di cose nuove. Invece guarda, io ho 15 anni che scrivo di sesso, non mi sono ancora stufata. Non ti sei ancora sposata? Vabbè, non mi sono ancora stufata. Ah, stufata. Ormai ha 50 anni, è sordo ormai. Tra i tanti organi che non funzionano, c'è anche quello, in particolare. Non voglio sapere gli organi non funzionanti di Cruciani, non voglio sapere. Io ho detto tra i tanti organi ce n'è anche uno. Allora, che cos'è la parola squirting, Maria Elena? Cosa significa? Maria. Allora, lo squirting è la capacità che alcune donne hanno di eiaculare al momento dell'orgasmo. Siamo veramente al top assoluto. Assoluto. Ti è successo qualche volta con le tue fidanzate? Parenzo, le tue poche fidanzate? Credo di no. Adesso questo. Io in generale sto parlando. In generale, mica devi specificare chi ti è successo. 39 anni di carriera. Ti è successo qualche volta? Ne ho 40, quasi 39. No, quindi sei stato con poche donne, però vabbè, lo stesso, mica è un delitto stare con poche donne. Sono stato con 25 persone. 25 persone. Ti è successo qualche volta di incontrare una che adesso non so se è il caso. No, ma mica, non devi dire i nomi, se è successo non è successo. Ah no, ma quello non direi mai, no, ma non dico neanche quello. No, non dici neanche quello, non ti è successo, non vuoi dire nemmeno quello, no. Qualcuno potrebbe offendersi. Voglio rimanere terzo nella discussione. Nella discussione che c'è. No, perché la questione è questa. È vero, Maria Elena, tu hai fatto una grande inchiesta sullo squirting, soprattutto perché tu devi sapere, Parenzo, che tra i video più cliccati porno in Italia, dalle donne in particolare, ma non solo dalle donne, ci sono i video sullo squirting. Sì, no, dalle donne è proprio la prima ricerca che fanno su Pornhub. Le donne vanno a vedere video di squirting. Sì. Ma è una cosa pazzesca. E che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Professore Dormina, però scusi, ci scusi per questa cosa qua. Lei pure, nonostante il fatto che è integerrimo, sarà andato qualche volta a visitare un portale porno, cioè un dei video porno. Credo che le sarà successo nonostante questo. Ma qui per spiegare tutto abbiamo un personaggio, caro Parenzo, perché Maria è una grande studiosa di queste cose, anche di squirting, come tu studi la politica. Lei studia lo squirting, studia il sesso. Ma non devi offenderti per questa cosa. Non devi stupirti per questa cosa. No, ma io rispetto. Cioè, Maria Elena è una che scientificamente studia il sesso, lo squirting, non solo lo squirting, eccetera. No, eccetera. Tante altre cose. Anche l'uso dei cosi, dei giochi. E alla casa, credo, mi ha raccontato una volta, piena di vibratori. Ma che cazzo dici, Cristiano? No, ma è così, perché piena di questa roba. Ma giustamente perché non dire mai nulla. No, ma regalano le cose. Giustamente chi lavora su queste cose è sommerso da regali, cioè è piena di dildi a casa. Vabbè, ma quello. Beh, diciamo che sì, insomma, ogni tanto succede che in redazione. Ma li porti in borsetta anche? Li porti in borsetta, sono piuttosto, come dire, ingombranti. Ma dipende, ci sono pure in redazione li abbiamo, Cruciani. Se ci vieni a trovare in redazione, ti facciamo vedere il nostro archivio di sex toy. Cioè, capito che cosa hanno i signori di Cosmopolitan? Altro che Radio 24, il Sole 24 Ore, caro Parenzo. Altro che il Sole 24 Ore. Cioè, tu vai qui, ci sono le biblioteche di libri. Cioè, tu vai dall'altra parte e vedi invece sono i libri del professor Cipolla, ad esempio, che è questo economista. Perché ridi? Ma abbiamo con noi la cosa molto grave è che invece i libri di Cipolla, sulla tua scrivania, quelle poche volte che vengono a Milano, sono tutti in tons, impacchettati. Esatto, sì. E sono sul tavolo di Riccardo Poli, chiusi. Non ne hai aperto uno del professor Cipolla. Ma chissà che Cruciani non legge, no? Cioè, mi sembra che e invece si esce. eccita all'idea che Cosmopolitan pulluli di, diciamo, di dildi. È un uomo medio, diciamo così. Ma adesso non dire cazzate, adesso mi offendi, vai effettivando subito a fare in culo. Ma abbiamo una stupenda, meravigliosa pornostar che si chiama Valeria Visconti. Buonasera. Adiuvandum, come si dice in latino. Buonasera, cara Valeria, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, sto benissimo. Ha una voce fantastica, intelligente, meravigliosa. Ruggero è morto intanto, che fine ha fatto il Ruggero? Ruggero sta sentendo questa meravigliosa conversazione tra persone di vita, vogliamo dire divertita, per dire poco. Cosa gliene frega? Aspetta, Ruggero, se permettete, io mi asterrei. No, aspetta, aspetta. Questo quadro, no, voglio il tuo giudizio finale. Voglio il tuo giudizio finale. C'è la sentenza finale nei confronti di questo quadro di perversione secondo me di normalità. Allora, signora Visconti, devi sapere, Parenzo, che è una squirter. Ora, io conosco Visconti di Modrone, che è uno che faceva anche Luchino Visconti, cioè, la signora Visconti, però, per carità, diciamo anche la verità, signora Visconti, ma è lei, che significa ma essere lei è parente dei Visconti di Modrone, quello che fa quei velluti straordinari? No, assolutamente, fa la pornostar da poco tempo. Prima faceva tra le altre cose anche la squirt, cioè spettacoli di squirting. Va bene. Come funzionano questi spettacoli, cara signora Visconti? Allora, signora Visconti? Niente, praticamente lo squirting è un godimento femminile, quindi, come stavate dicendo, è questo, un godimento femminile che purtroppo non tutte le donne riescono a tirarlo fuori perché si vergognano, perché giustamente gli uomini non sono molto... Alcuni dicono sì, è bello, alcuni no, quindi magari le donne, insomma, che fanno il proprio partner da tanto tempo, magari si inibiscono e non lo fanno. Cioè, capito, ci sono degli uomini che sono schifati da questa cosa qua, giusto? Sì, alcuni sì, certo, però è una cosa naturalissima, perché se tu ti conosci bene, poi... Ma per te era sempre stato naturale, oppure perché tu sei una grande squirtatrice, o sbaglio? Sì. Cioè fiumi, fontane... Fontane, mare, sì. E che ne so, spiegamelo. Qui siamo tutti, pendiamo dalle tue labbra in tutti i sensi, cara Valeria. In tutti i sensi, era facile, questa qua era molto facile. Capisco che era molto facile, però ci stava. Allora, io dico una cosa. Calambur di Crociani. Diciamo la verità, che il 90% io non conosco uomini cui non piace. Devo dire la verità, non conoscono uomini cui non piace. No, io conosco degli uomini anche che non piace. Mi capita spesso che comunque durante lo spettacolo mi capita degli uomini che mi dicono: ti prego, non me lo far fare. Problemi, perché? Effettivamente. Cioè io adesso sto andando ad uno spettacolo teatrale a Milano che non ha come protagonista, cioè, Valeria Visconti. Ma questi spettacoli, alla fine, tu che fai? Cioè, fai delle scene di sesso, ti tocchi, eccetera, eccetera. No, sesso no, scene con dildo, e quindi io ho una casa piena di vibratori, visto che voi stavate dicendo prima, io invece sì, ho proprio una casa piena di vibratori, quindi li uso, e quindi li uso anche lì sul palco, faccio lo spettacolo, quindi masturbandomi con questi vibratori e alla fine squirting, sì. Questo è il senso della pièce. Prego, io voglio portare della pièce, diciamo, della messa in scena. Voglio portare Ruggero. Qual è la voglio trama portare Ruggero, voglio portare Ruggero a uno spettacolo della signora Visconti, ti giuro. Questo non credo. Voglio che Ruggero inondato dalla signora Visconti. Ti prego, chiamalo, maledetto. Lo chiamerò sul palco proprio. Chiamalo sul palco. Beh, io non capisco una cosa, dopo questi spettacoli tu sei diventata pornostar, ma fai anche nei video porno nei film? Anche nei video sono molto richiesti, lo sai, normale, ma quanto guadagna normale una come te? Dimmi la verità, dai, su, dimmelo, tanto, su, dai. Tanto, cioè quanto arrivi all'anno? Vabbè, non si può dire, tanto. No, dillo, che ne so, mica ti mettiamo il fisco alle calcagna. Quanto guadagni? 200, 300, 400? Quanto guadagni? Non lo so, non li ho calcolati. Cioè, tu capisci, Parenzo, si guadagna con lo squirting, cioè una cosa incredibile, Una professione come un'altra, mi pare di aver capito. La naturalezza con la quale la signora descrive questo lavoro mi sembra dimostra, ed è anche attinente a quella che è la missione di questa radio, che è del gruppo che si occupa appunto di mercato del lavoro in genere, no? Sì, intorno al sesso, caro Parenzo, tutto gira intorno al sesso, anche la Confindustria. Beh, questo è fatto, questo non c'è dubbio, tutto gira intorno al sesso, anche la signora Visconti. Provavo a giustificare la presenza della signora Visconti. È il capitolo nuove professioni, se vogliamo. Ho capito, certo, nuovi lavori, nuovi lavori. La signora Visconti è la squirter italiana più famosa, ma quello che esce non erano presenti al congresso dei giovani della Confindustria a Capri, però questa cosa qua non c'era la signora Visconti, ma è pipì quello che le esce dalla sua. Però dai, ma che roba è? Perché l'hanno analizzata quando abbiamo fatto anche analizzata all'università, l'hanno analizzata e non è pipì, è un liquido seminale. Siamo tutti più contenti, che dobbiamo più contenti. Allora, Maria Elena, tu lo fai o no? Lo sapevo che arrivavamo qua, guarda Cruciani, lo sapevo. Lo fai o no? Non lo fai. Allora, quello, no, fammi parlare, però quello che posso dire, non è pipì, è molto simile alla pipì, ma non è pipì, è più simile all'acqua che alla pipì, l'hanno analizzato in laboratorio. Siamo tutti più tranquilli, non ci hai rivelato se lo fai o non lo fai, perché non lo vuoi rivelare, ma tanto non lo fai, perché secondo me non lo fai, perché altrimenti l'avresti detto, Ma figurati, se io non di lavoro faccio giornalista, non faccio mica quindi insomma, certe cose... È bello, la sessualità è una cosa delicata. Ma infatti privata. Adesso qua non lo puoi dire qua che vogliamo tenerla, che bisogna tenerla privata. Guarda. Ragazzi, dobbiamo salutarci, arrivederci. Ciao Valeria, abbracci, bacio. Buona serata a tutti. Bacio, insomma, dai, esageri. Pippe, molte pippe. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione. Pippe. Si sente.